Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. Adesso subito i temi, una risposta prima di tutto perché vedo già molti messaggi. Torneremo sulle quote latte, sugli splafonatori, sul perché la Lega difenda 460 splafonatori contro 31.000 allevatori onesti, e una difesa, non solo quella della Lega ma in generale, che ci è costata già 3 miliardi e mezzo di euro in questi anni, e manca 1,5 miliardi di multe da versare a Bruxelles, multe che poi devono essere fatte valere contro chi ha splafonato. Torneremo lunedì, dovrebbe essere nostro ospite il senatore della Lega, indicato come uno dei maggiori difensori di chi ha splafonato, di quindi chi non ha rispettato le quote latte previste, e resta sempre il dubbio, che cercheremo di chiarire con lui, sul perché un partito preferisca difendere 670 persone a discapito di altre 31.000 possibili elettori. Oggi però no, appunto, rimando il tema del latte, delle quote latte, a lunedì. Oggi avremo ospite nella seconda ora del programma, come facciamo ormai da settimane, i manager di grossi gruppi industriali italiani, e oggi sarà la volta di Marco Tronchetti Provera, quindi presidente della Pirelli. Non solo per parlare della Pirelli come investimenti, è cresciuto molto il fatturato della Pirelli, è cresciuta soprattutto l'esposizione della Pirelli, che fa sostanzialmente ormai pneumatici di gamma medio-alta. Dicevo, è cresciuta molto la presenza della Pirelli sui mercati esteri, Cina, Russia, Sud America, con una prospettiva sull'India. Ma ne parleremo con Marco Tronchetti Provera anche della situazione del paese, della posizione di Confindustria, e chiaramente gli chiederemo anche se è disponibile a candidarsi come presidente di Confindustria, perché no? 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve, poi chiaramente il manifesto per le imprese approvato oggi da tutte le associazioni di categoria, Confindustria, Confesercenti, cioè quelle che vanno sotto la rete Imprese per l'Italia, ABI, quindi Banca Italiana e ANIA, e i mercati finanziari. Mercati negativi chiudono la settimana con il segno meno 1,65%, ma soprattutto Francoforte meno 2,85%, Parigi meno 2,14%, Londra meno 2,10%. Però c'è fermento sulla Popolare di Milano, senza Arpe ma con Ponzellini. Banca Popolare di Milano più 13,60%, Fondiaria Sai più 3,56%, Banco Popolare più 1,70%, Autogrill più 1,53%. Chi perda oggi invece sul mercato, soprattutto di nuovo, la Popolare Emilia Romagna, meno 5,80%, Tod's, ancora in flessione tutto il settore del lusso, meno 5% anche oggi Tod's, Luxottica meno 3,44%, e ancora segnaliamo Fiat in difficoltà soprattutto su Industrial, quindi trattori e camion meno 3,80%, Saipem meno 3,36%, Prismian meno 3,20%, Exor meno 2,90%, Intesa meno 2,80%, e Mediobanca meno 2,70% con Finmeccanica. Il 2,5% lo perde Telecom Italia, ma anche Generali. Il 2,3% di Assorin, visto che avremo ospite Marco Tronchetti Provera. Vediamo anche che fa Pirelli, meno 0,56%. Allora, per quello che riguarda invece le altre notizie, arriviamo al manifesto degli industriali, non vi preoccupate, tra pochissimo. Il petrolio è in calo a $80,35 al barile, oro in rialzo a $1,640. In Giappone una buona notizia, la produzione industriale è tornata a un livello pre-sisma, pre-tsunami. Mentre Goldman Sachs oggi dice che l'area euro ha un'altissima probabilità di finire in recessione. Goldman Sachs infatti dice che l'intera eurozona ha, ha una possibilità tra il 40 e il 50% di una nuova recessione che riguarderebbe i prossimi due trimestri. Goldman Sachs si becca a gufo. E poi la Deutsche Bank, Ackermann, dice l'Italia è un grande problema nell'Unione Europea, nell'area europea. Alla fine, sostiene l'amministratore delegato di Deutsche Bank, si arriverà alla ristrutturazione del debito greco, cioè a rinegoziare il debito greco. Di debito greco parleremo oggi tra pochissimo, mentre la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che non sta in questo momento acquistando più obbligazioni europee, cioè debito italiano e spagnolo soprattutto. Ancora due dati che arrivano dall'Italia e poi il tema di apertura. L'Istat oggi ha diffuso i dati che riguardano sia l'inflazione che la disoccupazione. Allora, l'inflazione sale al 3,1% a settembre e ai massimi dal 2008. Staremo a vedere se questa inflazione in salita verrà confermata anche dagli altri paesi europei. Il dato è quanto mai importante perché potrebbe allontanare le possibilità per la Banca Centrale Europea di ridurre i tassi di interesse, visto che un'inflazione sopra il 3% per la BCE è un'inflazione già alta. In Italia però questa inflazione al 3,1% incorpora già l'aumento dell'IVA e non vorrei tornare su una polemica che stiamo seguendo da una settimana. In molti casi il passaggio dell'IVA dal 20 al 21% ha portato rialzi dei prezzi superiori all'8%, CD musicali più 7,7%, DVD più 2,6%, i caffè al bar più 3%, anzi un aperitivo più 3%, caffè a bar più 8%, per poi lasciar fuori tutti gli aumenti dei pedaggi autostradali. L'altro dato che diffonde oggi l'Istat riguarda gli occupati ad agosto sopra i 23 milioni ed è un buon dato perché l'occupazione è ai massimi degli ultimi due anni, è ancora più bassa rispetto al 2007, ci mancherebbe, ma è ai massimi degli ultimi due anni. Il tasso di disoccupazione cala al 7,9%. ...349-238-6666 per i vostri sms. E allora il primo tema, c'è una settimana di passione sulla Grecia, di passione greca, ma anche di passione sui titoli italiani, e domani tra l'altro continuano anche le guide, i manuali per sopravvivere, io lo chiamate io alla crisi, più che vivere con la crisi, del Sole 24 Ore. Facciamo il punto con due ospiti, ripeto 349-238-6666 per i vostri sms. C'è gente che vuole andare a spalare la neve in Sicilia, penso che il riferimento sia quel dipendente della provincia di Palermo che ha accumulato 442 ore di straordinari per aver spalato la neve a Palermo ad aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, e dire che la primavera è la più calda dell'ultimo secolo. Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E ringrazio anche un altro ospite. Sapete che noi sentiamo spessissimi italiani che abitano in Grecia, abbiamo ascoltato qualunque tipo di categoria professionale. Oggi è nostro ospite Dioniso Xopei, spero di averla pronunciata bene, buonasera innanzitutto. Buonasera. Un nome più greco non poteva averlo, lei è metà greco metà italiano, è immobiliarista e finanziere e ci aiuterà a capire anche cosa sta succedendo sulla ristrutturazione del debito greco, e lei opera in Grecia chiaramente. E quale potrebbe essere il vantaggio per i paesi Germania e Francia, perché loro sono molto esposti, ma potrebbero avere qualche tornaconto. Alessandro Praterotti, un primo commento sulla settimana, poi arriviamo anche a quello che esce domani sul Sole 24 Ore. Sospiro di sollievo con l'approvazione del Bundestag. Ho la sensazione che però un po' troppi osservatori stiano cantando vittoria, a mio avviso troppo presto, ma non voglio darmi il gufo da solo, preferisco casomai darlo a te, però insomma attenzione che abbiamo letto una Deutsche Bank anche oggi dare per scontato che la Grecia sostanzialmente dovrà ristrutturare il suo debito e quindi di fatto essere accompagnata a un fallimento tecnico. Ma se devo essere onesto, le banche sono state le prime a dire che la Grecia doveva fallire, doveva ristrutturare il proprio debito subito. È bene che gli ascoltatori tengano presente che c'è una bella differenza fra fallimento e ristrutturazione del debito. Qui stiamo parlando di una ristrutturazione del debito che deve servire non soltanto ad alleviare il carico che è sulle spalle oggi del governo greco, il carico di oneri finanziari che deve pagare sul proprio debito e quello che soprattutto agli investitori che hanno comprato il debito, ma è in generale è una situazione in cui si sta puntando a tagliare il costo del debito su una particolare tranche a breve termine, cioè si sta cercando di alleviare nel breve periodo, quindi diciamo debito in scadenza fino al 2015, quello che è la quota che dovrà pagare la Grecia. I rimborsi più a breve, mi potremmo dire. 2020. Fino al 2020 si sta parlando, quindi vedete che questo è ancora più leggero per la Grecia, gli facciamo un favore ulteriore, ma va bene, è meglio, anche se l'ERCAT, cioè il taglio di quello che dovranno essere i pagamenti, dovesse arrivare al 75%, qui si parlava del 55% a volte si sale. Ma anche se fosse un 70% è meglio contabilizzare una perdita che logorarsi nel lungo termine con uno stillicidio di notizie e di informazioni che spesso servono soltanto a drammatizzare situazioni che sono circoscritte, ed è bene dirlo, e purtroppo si sta enfatizzando un insieme di gufi, come dici tu Barisoni, che è più facile fare del disfattismo europeo che per dare soluzioni concrete. Allora viene un po' di rabbia a pensare che se un anno fa, adesso non voglio fare la polemica del senno di poi, però insomma se un anno fa si fosse affrontata la questione greca con meno rigidità ideologiche e andando subito a ristrutturare quel debito, ristrutturare il debito, lo dico a chi ce lo chiede, al 349-238-6666, insomma quando fallisci, parliamoci molto chiaramente, un po' come l'Argentina, uno dice bene, non mi puoi ridare tutto quello che ti ho prestato, mi ridarai il 50%, il 70%. Però è bene dire quando non vuoi fallire. Quando non vuoi fallire e ecco, vuoi diciamo essere mantenuto tecnicamente in vita. Certo. Dice, vabbè, vediamo quello che riesci a darmi, perché tanto so benissimo che il 100% di quello che ti ho prestato, cioè del tuo debito, non me lo riesci a ritornare. Esatto. Dico, l'avessimo fatto un anno fa, avremmo evitato un anno di passione su questo. Alessandro, che poi torno alla Grecia, veniamo però agli altri paesi, al Club Med, che è un Club Med in cui nessuno vuole andare in vacanza, cioè Spagna e Italia. C'è. Lo spread è tornato a 370 punti, cioè la differenza tra quanto costa noi indebitarci la Germania, che è un livello comunque alto, è sotto i 400, ma è un livello pre-manovra finanziaria. I CDS a 460 punti, però la Banca Centrale dice io in questo momento non ho bisogno di acquistare titoli europei. Certo, è una situazione, infatti ritorniamo nuovamente, io vorrei, sarebbe importante che si facesse un passo indietro tutti quanti su quello che è la percezione di quello che sta avvenendo, perché è ovvio che i mercati finanziari tendono ad esasperare la situazione perché facilita movimenti speculativi, grande volatilità sulle azioni, che comunque sia, ricordo che qui sennò si parla sempre della crisi della borsa, io facciamo il calcolo che dal 2009 a oggi l'indice Standard & Poor's, quello che fotografa un po' l'andamento delle 500 più importanti imprese del mondo, non le americane, è in rialzo di quasi il 65%, ancora 60-63%. Quindi voglio dire, la borsa in questi due ultimi anni ha continuato comunque a guadagnare. Detto questo, è ovvio che ci sono dei problemi, ma sono dei problemi che vanno visti caso per caso. L'Italia paga il 5,89%, 5,87%, quant'è adesso sul bond, sul BTP. Va bene, il nostro debito ha una scadenza media del 7%, intendo dire, è una situazione grave, ma noi rifinanziamo soltanto il 15% di quei 1.800 miliardi di euro che abbiamo di debito, quindi e prendendo pure che l'Italia possa crescere con un tasso compreso fra lo 0,5 e lo 0,7% l'anno per i prossimi tre anni, e di questo stiamo parlando adesso, 0,5, insomma intorno allo 0,5%, il carico del debito italiano è pienamente sostenibile. Allora, dov'è il dramma? La Spagna. La Spagna in questo momento sta pagando dei tassi sui buoni sui titoli di Stato inferiori ai nostri. Poi l'Irlanda, vediamole una per uno. L'Irlanda, si è detto dove è finita l'Irlanda. L'Irlanda ha avuto una crisi non economica, ha avuto una crisi finanziaria, nel senso che le banche avevano prestato troppi soldi senza chiedere sufficienti garanzie, per cui la crisi riguardava le banche, non l'economia. Oggi l'Irlanda credo che abbia un rapporto deficit PIL che sia del 120%, debito PIL 120%, due anni e mezzo fa era circa l'80%. Quella differenza che c'è sono i prestiti che gli ha fatto la BCE. Quindi attenzione quando parliamo di... Io non voglio dire che questo è il migliore dei mondi possibili, non lo è, ma dobbiamo ragionare con grande lucidità sulla situazione reale, ed è per questo che abbiamo fatto questo manuale anticrisi, di cui poi parleremo, mi auguro di spiegare bene, in modo che anche subito, i nostri ascoltatori capiscano. Sul manuale anticrisi anche subito. Prima però una domanda per te, l'abbiamo fatta ieri a Oscar Giannino, a Stefano Folli, continua il nostro sondaggio su chi deve fare governatore della Banca d'Italia. Al di là della battuta, perché il problema che sta emergendo è anche qui il deficit di credibilità. Attenzione, come tu ricordavi, noi paghiamo degli interessi più alti rispetto alla Spagna, pur avendo a mio avviso una situazione nettamente migliore di quella spagnola. C'è stato un deficit di credibilità politica in queste settimane. Un handicap, sì, c'è un handicap politico che naturalmente, ecco, noi siamo, ci si quanto pesa questa vicenda della Banca d'Italia? Della Banca d'Italia, uno, e due, insomma. Allora, la vicenda peserà. Tutti, dacci anche tu. Guardate, io, per ora non pesa affatto sui mercati internazionali, perché lo spread si chiude. Ricordiamoci che in questi ultimi due giorni, oggi non ho visto l'ultimo andamento, ma di 3,70. Fatto non è una questione, ecco, stiamo oscillando sui valori di ieri, che era 3,68 se non sbaglio, quindi non è una, ancora non ce la stanno facendo pagare, no. Ma attenzione, potrebbero farcela pagare se noi trasciniamo l'istituzione più importante e monetaria che esiste in Italia, anche se non fa più, non fissa i tassi di interesse come una volta, ma regola la stabilità bancaria, certo, e la buona gestione del credito negli istituti bancari italiani. Quindi è un'istituzione importante, siede nella BCE, nel board, e fra l'altro l'attuale governatore diventerà il governatore della BCE. Questo teatrino non fa bene all'istituzione, ma io non mi preoccupo poi soltanto dell'istituzione, mi preoccupo degli uomini. Ricordiamo che qui stiamo parlando di figure, sia Grilli che al Ministero del Tesoro, che Saccomanni, che sono due uomini, due figure chiave in Europa, conosciute, apprezzate, stimate. Metterli con uno contro l'altro come se fossero due pugili non fa bene né al paese, né a loro, né all'istituzione. Quindi io dico, chiunque dei due sia, sarebbero due ottime scelte entrambe, ma farle diventare un teatrino, quello gli dice che è milanese, ecco, questo è la cosa avvilente. Saccomanni o Grilli? Chi passerà? Io no, penso... chi votresti tu? Tanto è un gioco. Ma che io non voto, non è una questione vota di un voto. Non... Sinceramente, chi... sono contento di non avere questa scelta, perché stiamo parlando di... Ricordiamo, Grilli, fra l'altro, è il presidente del gruppo di lavoro che ha portato alla nascita del Fondo Salva Stati. Esatto. Ed è il principale candidato a diventare presidente del Fondo Salva Stati, perché l'amministratore delegato sarà un tedesco. Quindi, attenzione a lei. Saccomanni è una figura eccellente, assolutamente autorevole, il segno della continuità. Come posso scegliere io, dire qual è migliore? Questo è un compito che sta al Presidente del Consiglio. Sinceramente, da quello che so io, da quello che sappiamo, il Presidente del Consiglio ha preso un impegno col Presidente della Repubblica per nominare Saccomanni. Se questa è la scelta, tutta l'Italia è felice. Se poi si decide di andare in altra direzione, purché si decida. Sinceramente io non credo che gli italiani possano fare il tifo o gli interessi proprio fare il tifo per Grillo o Saccomanni. Gli italiani vogliono avere una buona gestione, una buona immagine, e un paese forte. Abbiamo detto come il Duca di Mantova, questo, quello per me è parison, basta che si decida. Ma certo, non è... Alessandro, tu citavi già la guida del Sole 24 Ore di domani, sì. Ricordo, perché l'abbiamo lanciata anche venerdì scorso, che esce solo il sabato, questa è una, sì, cosa particolare, quindi ne dico solo il sabato. Venerdì scorso ci ha raccontato il primo numero Fabrizio Galimberti, il manuale, diciamo, anticrisi. Domani? Domani cominciamo con il primo libro della serie, ne dico dal primo ottobre, è il manuale anticrisi di Fabrizio Galimberti. Esatto. Questo, partiamo con quello. E sostanzialmente il nostro obiettivo qual è con questa catena? Rispondere a due domande. Perché questa è quella che ci fanno i nostri lettori, e credo che, e quando mi fermano per strada, come dice Roberto Napoletano, il nostro direttore, sono le domande che ci fanno. Quindi è il buon senso che ci ha spinto. Che cosa sta succedendo è il primo passo, che cosa fare è il secondo. Quando dico che cosa fare, e questo penso che sia il valore aggiunto di questa collana, certo, che veramente può servire a riportare veramente un po' di concretezza e serenità nel dibattito, è che cosa non fare, perché la cosa più pericolosa sono i comportamenti irrazionali. I comportamenti irrazionali sono il vero danno che si può fare all'economia e a un paese. Questa collana non ha lo scopo di diventare la Bibbia di come comportarsi nel suo finanziario, ma ha lo scopo di dare una strada per un costo che è inferiore a un caffè ai milioni di risparmiatori che vengono confusi soprattutto da messaggi contraddittori, da notizie che sono spesso di un allarmismo sproporzionato rispetto alla realtà, e però metterli in guardia e dargli gli strumenti per capire se quando guardano la televisione o leggono i giornali gli stanno raccontando la verità. La guida è gratis? No, è meno del costo di un caffè, pre-IVA al 21%, cioè 50 centesimi, se non ricordo male, di euro. Grazie Alessandro Patterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. E noi adesso invece torniamo sulla Grecia per facendoci raccontare quello che sta capitando da chi in Grecia vive, opera, come stiamo facendo ormai da mesi, ha un'attività, produce. Allora, il nostro ospite l'ho già salutato. Da quanti anni vive in Grecia lei? Vivo da una dozzina di anni fra Atene e le isole. Mi occupo di immobiliare e di consulenza finanziaria. Allora, mi dica una cosa. Tra i motivi che hanno portato a questa crisi del debito greco, oltre ad aver truccato i conti, spesso evochiamo il pubblico impiego, il nero, la mancata fatturazione, l'evasione fiscale. C'è un altro elemento però che so che lei mi vuole mettere in evidenza, che obiettivamente sfugge molto all'attenzione, e sono le spese militari greche. Perché lei punta l'indice sulle spese militari greche? Perché spesso noi ci occupiamo della Grecia per altri motivi. Dunque, le spese militari in Grecia sono un'anomalia nel mondo occidentale, raggiungono il 5% del totale di bilancio e sono esclusivamente dovute alla necessità di difesa preventiva nei confronti di un possibile attacco da parte della Turchia. Si noti per inciso che la Turchia è un applicant nel ruolo di candidato membro dell'Unione Europea, per cui non si capisce come mai la presidenza dell'Unione Europea abdichi totalmente ad esercitare un minimo di potere di moral suasion nei confronti di un applicant, quando questo stesso applicant dice che interromperà ogni relazione con l'Unione Europea qualora entro la data della presidenza di Cipro nel giugno 2012 Cipro non sarà riunita, per cui notiamo aspetto poco asimmetrico. Di contraddizione. Però lei mi stava dicendo 5% di PIL, faccio notare che è quasi tre volte quello che noi spendiamo per la spesa militare in Italia. Perfetto, questo è molto importante ed è una realtà di cui tutta la popolazione greca è estremamente conscia. È un aspetto molto grave, perché fa apparire al pubblico greco, che è quello che poi ha la possibilità di mettere in pratica o di far fallire un qualsiasi concordato attraverso questa sproporzione, questo debito è stato fatto per acquisire per esempio dei sottomarini che poi in sede dalla Germania dei sottomarini che poi in sede giudiziaria è stato scoperto che non avevano neanche un sistema puntamissili, e il ministro indagato Papantoniou ha risposto che era un optional che non aveva ordinato. In effetti uno sottomarino può usarlo o per farsi un giro sott'acqua o anche per lanciare dei missili. Esatto. Ma anche la Siemens fu coinvolta, se non ricordo male. La Siemens è stata coinvolta ad altissimo livello, le società francesi, le società americane. In altre parole, l'opposizione da parte della popolazione sia al pagamento del debito, sia a un pagamento di un debito con un haircut non realistico tipo quello del 21%, cioè con una riduzione del 20%, è dovuta al fatto, alla chiarissima percezione che questi loans fatti dall'estero, questi prestiti ottenuti dall'estero, fossero in realtà una partita di giro delle tangenti e fossero una partita di giro nella quale la parte ad elevato valore aggiunto è rimasta nelle tasche dei fornitori occidentali tedeschi, di armi, francesi. E alla popolazione greca è rimasto il debito. Voglio tornare sull'aspetto dello swap che in questi giorni si sta... Cioè dello scambio, scambio che ricordava prima Platerotti, dello scambio, il debito mi devi 100, facciamo che tu mi ridai 80. 79 è il numero 79. Per la precisione, e tutte le obbligazioni che scambiano entro il 2020 dovrebbero essere scambiate. Secondo me questo haircut del 21% non è un livello di equilibrio, perché non ha l'effetto di tacitare la piazza, che poi deve subire degli aumenti fiscali, degli aumenti fiscali assolutamente insostenibili. Avete letto che ormai anche le pensioni da 400 euro al mese verranno tassate, e la piazza deve, come minimo, alla piazza greca bisogna come minimo dare un haircut per il quale prestatori imprudenti vengono penalizzati nella quota del 50%. Allora, cerco di sintetizzare. Lei dice: l'opinione pubblica greca, di fronte a una ristrutturazione in cui chi ti doveva 100 becca 80, la ritiene ancora troppo generosa, e dice: siccome questo debito l'abbiamo accumulato per giro di, sono partiti di giro, di tangenti, di favori a imprese tedesche e francesi, in primo luogo nel settore militare, devono pagarla di più, bisogna ridargli al massimo il 50%, ho capito bene? Ha capito bene, anche perché in realtà la popolazione greca è al corrente di temi che io non vedo affiorare nella stampa occidentale, e cioè il risultato degli swaps conclusi con Goldman Sachs non è stato attualizzato. L'anticipazione del flusso di cassa delle autostrade greche, che è stato anticipato, non è stato attualizzato, e le casse dei fondi pensioni sono vuote. L'economia greca si regge su un sistema di assegni postdatati che si è gonfiato in dimensioni totalmente inimmaginabili, per cui la popolazione greca sa che neanche il 79% del debito potrà mai essere ripagato, per cui chiede delle condizioni più vantaggiose per... Mi dica solo due cose, poi più realistiche. Sì, ha ragione Alessandro, più realistiche oltre che più vantaggiose, cioè che ti possono dare la possibilità di ripagare effettivamente. In una battuta, secondo lei però potrebbe esserci uno scambio tra Germania, Francia e le loro imprese a dire: va bene, ristrutturiamo il debito, però poi le commesse per le costruzioni, per i macchinari, per le autostrade, per i militari le diamo a imprese francesi e tedesche, sì o no? Sicuramente per quanto riguarda le imprese tedesche, la lista delle aziende da privatizzare saranno privatizzate a prezzi talmente basse per cui il sistema in banca industria tedesco è quello che ne beneficerà più di tutti, cioè le Public Power Corporation, la società dei telefoni, le società delle autostrade trattano in borsa a delle quotazioni talmente basse per cui il sistema paese tedesco sicuramente recupererà da una parte quello che le banche perderanno dall'altra. In certi casi ci saranno addirittura al limite delle compensazioni di fatto. Certo. Alessandro? No, volevo chiedere una cosa. Uno, se l'opzione di uscire dall'euro, gli greci sono ben consapevoli del significato reale del rischio che corrono. Due, qui sto ascoltando anche amici che hanno viaggiato in Grecia quest'estate o recentemente, tornano dalle isole dicendo: ma io non ho visto nulla. Allora, la domanda è questa: esistono due Grecia, una Grecia che è Atene e una Grecia che è il resto del paese, che non sembra riflettere queste tensioni? Mi date la risposta dopo il metro e pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. 17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è chi dice: parlate chiaro, una riduzione del debito, cioè un rimborso del 79% è un default. Sì, è un fallimento tecnico della Grecia, ma questo non è che lo diciamo noi. Il debito greco, i BOT greci, i BTP greci al 2020 rendono il 21%, cioè per trovare dei finanziatori la Grecia dovrebbe offrire il 21%, si arriva facilmente a questo calcolo. Il nostro ospite stava dicendo che in Grecia invece c'era netta percezione che anche il rimborso del 79% del dovuto non sarà possibile alla Grecia, e si chiede, e l'opinione pubblica chiede, un rimborso di almeno non superiore al 50%, cioè la metà di quello che devi. Rapidamente, la domanda di Alessandro Praterotti: l'opinione pubblica greca è l'ipotesi di un ritorno alla dracma, da un lato, e la crisi c'è solo ad Atene, nelle principali città, o anche nel resto del paese? Perché molti anche segnalano a noi al 349-238-6666 che nelle isole greche la percezione della crisi non l'hanno registrata. Dunque, l'argomento del ritorno alla dracma è un argomento populistico, mi spiace dire che è tenuto in vita solamente dai partiti comunisti, che sono due o tre e che comunque sommano un totale di circa il 25%, per cui è un argomento politico, è un argomento esclusivamente politico, ma naturalmente ha una grossissima diffusione solo strumentale, in realtà anche nei bar greci, specialmente. Per quanto riguarda la crisi, è vero che gli aspetti più vistosi della crisi sono a Syntagma Square, dove ci sono le telecamere della BBC che dimostrano i marmi del Grand Bretagne che vengono fatti in pezzi. In realtà il sistema di navigazione e di trasporti interno della Grecia, che è ampiamente sussidiato dallo Stato, sta cadendo in pezzi, perché la Grecia non ha più il sistema per sussidiare le linee di navigazione che non siano estremamente redditizie. E lo stesso per quanto riguarda le amministrazioni regionali e provinciali, il mantenimento delle infrastrutture, per cui lentamente da Atene questo si propagherà anche alle isole greche. Allora, grazie e complimenti per l'ottimo italiano a Dionisio Xopei. Buon rientro in Grecia, la risentiremo e continueranno in queste settimane il nostro viaggio ad Atene. Perché? Perché intanto, a mio avviso, è interessante sapere come vive un paese il fallimento tecnico e pilotato, e poi perché nella vita non si sa mai, qui mi autotiro una gufata, la borsa. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Eri in Grecia quest'estate? Sì, in realtà sì. Allora, caschi e fagiolo, l'hai vista la crisi nelle isole? No, ma io ero in un'isola abbastanza sana, nel senso che ero a Zante, quindi rimane anche più vicino all'Italia, sì. Vabbè, senti, oggi molto bene, no, possiamo continuare anche con le tue vacanze, però magari parlerei anche di borsa. Oggi molto bene la Popolare di Milano, più 13,82%, Fondiere Assai più 2,30%. Partiamo subito con la Pop Milano e poi dopo il traffico andiamo sugli altri titoli. Allora, bisogna innanzitutto dire che con il rialzo di oggi la Banca Popolare di Milano porta più 52% i guadagni realizzati in 7 sedute. Allora, il tema sono praticamente le scommesse sull'ingresso di nuovi soci che potrebbero entrare appunto nel corso dell'aumento di capitale da 800 milioni di euro. Indiscrezioni parlano quindi di tre possibili candidati: Andrea Bonomi, Claudio Sposito con il fondo Cressidra e la Sator di Matteo Arte. Bisogna segnalare che oggi sono stati molto consistenti i volumi, sono stati scambiati oltre 16 milioni di pezzi contro una media giornaliera poco meno di 5 milioni di azioni. Sì, sì, fortissima l'attenzione sulla Popolare di Milano, chissà se c'è solo questa sotto. Comunque più 13,82 a 1,87 euro. Le altre banche invece si sono mosse in maniera composita, tendenzialmente in calo, ma non tutte. La Popolare Emilia Romagna continua a perdere anche quando le altre guadagnano, ma che succede? Meno 5,66% pure oggi. Sì, allora bisogna segnalare che il titolo... Cioè è entrata nel FTSE MIB e ha preso una botta dopo l'altra. Sì, allora la Popolare dell'Emilia Romagna è entrata nel FTSE MIB il 19 settembre, da quella data ha perso all'incirca il 13%. Bisogna segnalare però che arrivava da un rally piuttosto deciso, nel senso che il titolo aveva guadagnato oltre il 40% dai minimi del 10 agosto, quindi alla seduta prima di entrare nel FTSE MIB, quindi al 16 settembre. Per gli operatori, gli investitori quindi approfittano dei rialzi e della maggiore visibilità del titolo sul FTSE MIB per trarre profitto, ma vi è anche una notizia, nel senso che ieri la Consob ha chiesto alla società delle informazioni aggiuntive sulle offerte di scambio promosse sulle azioni non ancora possedute delle società controllate, e questo potrebbe aver incrementato le vendite. Allora, il traffico e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Focus Economia. Allora, dicevamo, Livia, al di là della Popolare di Milano e della Popolare Emilia Romagna, di nuovo debole tutto il settore del lusso. Tod's meno 5,14%, Luxottica meno 3,1%. Anche qui non capisco. Sì, allora bisogna segnalare che il comparto del lusso oggi ha mostrato una flessione in tutta Europa. Nei giorni scorsi aveva tenuto meglio rispetto agli altri comparti. Oggi sono arrivate novità, notizie negative dalla Cina, dove a settembre vi è stato un rallentamento dell'attività manifatturiera. La Cina è un paese importante per le società del lusso, quindi certo, indirettamente ne hanno risentito. Sottolineiamo ancora che Safilo ha perso il 16%. Eh sì, Safilo continua a perdere. Lì però c'è anche il contratto sugli occhiali Armani, se non ricordo male, può essere? Sì, sì, no, assolutamente sì. Infatti perché... sono in corso le trattative per il rinnovo. Esatto, bene Autogrill, anche oggi in borsa, qui pesa in senso positivo chiaramente l'approvazione del piano di acquisto di azioni proprie, più 1%. Vorrei chiudere con Archimedica. Molto bene oggi in borsa, non la trovo più, però se mi dici quanto ha fatto mentre io la cerco, grazie. No, Archimedito... Molto male in borsa, scusami, non molto bene. Eccola qua, meno 7,41%. Sì, allora, le azioni hanno guadagnato il 200% dalla chiusura del 19 settembre a ieri. Oggi ci sono stati dei realizzi, ma vi è anche una notizia, nel senso che Borsa Italiana ha comunicato che a partire da oggi sono inibite, quindi vietate, è vietata l'immissione di ordini senza limiti di prezzo sui titoli, proprio per contrastare i movimenti che ci sono stati nei giorni passati. La stessa decisione è stata presa sul titolo Monti Ascensori. Monti Ascensori che infatti ha guadagnato oggi il 28%, addirittura gli ascoltatori vorrebbero che ti recitassi il Foscolo su Zante, alcuni dicono che Zante non è un'isola seria, ma tu sì. Grazie a te e a tutti i colleghi del Corriere sulle 24 ore, un augurio di buon fine settimana. Noi restiamo sul mondo immobiliare, ma non greco questa volta, ma quello italiano, perché anche noi stiamo un po' iniziando a raschiare quello che si trova nel barile. E ieri l'incontro del ministro Tremonti con 150 rappresentanti di fondi di private equity, quindi chi mette i soldi per investimenti, immobilieri, banchieri, sindaci, il famoso seminario sul patrimonio pubblico. Dico famoso perché è uscita la cifra che il patrimonio pubblico vale oltre 1.800 miliardi, 700 miliardi immediatamente fruttiferi. Le partecipazioni dello Stato valgono 44-45 miliardi, dalla cessione degli immobili potrebbero arrivare 30 miliardi di euro, 10 miliardi all'anno a regime. E occorre fare la riforma, ha detto il ministro Monti. Tra gli invitati erano presenti, ripeto, molti immobiliaristi, tra cui l'amministratore delegato di Ines Italia, dottor Manfredi Catella, buonasera. Buonasera. Allora, Ines a Milano, per esempio, è impegnata nel progetto Porta Nuova, avete un valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro su 8 fondi di immobiliari. Mi dica una cosa, la usiamo come infiltrato alla riunione con Tremonti, qual è la cosa che ha detto il ministro che più l'ha sorpresa? Ma più che sorpresa direi è la consapevolezza lucida di un intervento urgente che chiaramente l'Italia deve fare, sicuramente tra i molti quello della privatizzazione è inevitabile, per cui credo che questo abbia dimostrato al mercato un segnale chiaro. E questa è la cosa che forse più la sorpresa, la cosa che si attendeva oppure che non è emersa secondo lei? No, direi che è stata l'occasione per raccontare al mercato la cornice entro la quale la privatizzazione si muoverà. Naturalmente poi si dovrà declinare attraverso gli strumenti, non era ieri l'occasione, ce ne saranno delle altre, ma credo debbano avvenire in tempi stretti, perché poi è questo il tema dell'esecuzione e anche del successo di un'eventuale operazione del genere. Certo. Certo. Un'ultima domanda che è la più difficile, visto che voi realizzate appunto immobili, ma secondo lei c'è lo spazio per cedere tutti questi immobili in Italia? Dico onestamente, nel senso che sappiamo che il settore immobiliare poi rischia anche di essere penalizzato da un eccesso di offerta. Cioè, quando lei legge queste cifre ci crede o no? Ci credo declinandole, cioè se parliamo in modo generico poi si rischia appunto di non arrivare a soluzioni. Io credo che il compendio immobiliare abbia una parte che è sostanzialmente a reddito, ossia produce flussi, questa può essere sicuramente resa più efficiente e anche cartolarizzata in varie forme e modi. La parte invece, diciamo, libera e più complessa, perché richiede valorizzazione, deve per forza essere traghettata in un orizzonte più di medio periodo, quindi dubito che possa accadere nell'immediato, ma lo strumento del fondo nazionale che il Ministero intende avviare insieme agli enti locali e in collaborazione con i privati potrebbe essere proprio una composizione di traghettamento che consentirebbe poi di ottenere i risultati nell'orizzonte temporale che si sono dati, che è quello del 2015. Una battuta sì o no, voi come Enes Italia sareste interessati? Noi stiamo completando la raccolta di un fondo italiano di valorizzazione presso investitori istituzionali che completeremo adesso all'inizio di novembre, che si candida sicuramente anche a partecipare. Ne stiamo lanciando un altro invece a reddito, idem. Per cui certamente per cui sì. è un tema interessante e volentieri collaboreremo ove possibile. Grazie anche al nostro legato di Enes Italia Manfredi Cattella. Adesso c'è il GR, poi Marco Tronchetti Provera, nostro ospite, nel ciclo di interviste che stiamo conducendo da settimane con i manager per capire come fanno affari in periodo di crisi, ma anche che consigli possono dare ad altri imprenditori. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, ultima puntata della settimana. È una borsa che ha chiuso con un meno 1,40%, lo dico per chi si fosse appena messo in collegamento. E dopo aver parlato di Grecia, di situazione sui mercati e anche del patrimonio immobiliare, continua il nostro viaggio tra i manager di gruppi medio, grandi o grandi di questo paese per capire come reagiscono alla crisi e da dove arrivino gli ordini, da dove arrivino le possibilità di aumentare il fatturato. Vedo molti SMS che possono essere a favore o critici, noi li intervisteremo tutti, piaccia o non piaccia. Abbiamo raggiunto oggi il presidente del gruppo Pirelli, che è il quinto produttore al mondo di pneumatici. Quest'anno tra l'altro ha visto nei primi sei mesi del 2011 un aumento delle vendite del 30%, soprattutto sui mercati esteri, e mi riferisco chiaramente a Marco Tronchetti Provera. Gli abbiamo chiesto in primo luogo in quali aree geografiche e da quali aree geografiche arrivi la domanda più interessante, quindi anche l'aumento del fatturato. Certamente la crescita l'abbiamo avuta non solo in Europa, l'abbiamo avuta in Cina, in America Latina, e abbiamo messo le basi per crescere anche in Russia. La nostra crescita si basa sullo sviluppo delle tecnologie. Lo sviluppo delle tecnologie ci ha permesso di conquistare sul mercato europeo una posizione di leadership sull'alto di gamma, e i risultati si vedono proprio quest'anno, e ci permette di crescere in Cina, negli Stati Uniti, un po' ovunque nel mondo, sia nel vecchio mondo, diciamo quello occidentale, dove il segmento premium sta crescendo molto più di quello standard, sia nei cosiddetti nuovi mercati, che tanto nuovi non sono, che vanno da Cina al Far East, scendendo verso il Medio Oriente e poi risalendo verso gli Stati Uniti e l'America Latina. Questo per quello che riguarda lo scenario complessivo. Voi avete inaugurato uno stabilimento, ampliato per meglio dire, uno stabilimento in Romania, se non ricordo male, verso fine agosto, e la Cina è stato l'ultimo vostro frontiera, con però in mezzo anche un'esperienza importante in Russia. Allora, è più l'Est Europa o il Far East, senza voler giocare troppo con le parole, che vi interessa? Ma certamente come dimensione di mercato la crescita è molto più grande nel Far East che nell'Est Europeo, se escludiamo la Russia. La Russia è un mondo molto grande ed è una buona base produttiva anche per il Nord Europa e le ex repubbliche sovietiche. Un pezzo che stiamo aggiungendo adesso è anche il Messico, che da un lato è un buon mercato, ma è soprattutto una buona base all'interno del NAFTA, perché il mondo è diventato un mondo di regioni, dall'America Latina con il suo Mercosur, al NAFTA negli Stati Uniti, evidentemente poi all'Unione Europea, andando poi verso est all'ASEAN e a tutti gli accordi commerciali fra la Russia e le ex repubbliche sovietiche. Ecco, ci può quantificare l'ammontare di questa crescita? Abbiamo visto nel segmento premium, nel segmento di fascia alta, un 60% in più, però anche in Europa nei primi sei mesi, se ricordo male. Che vuol dire che non tutta l'Europa poi cresce poco? È vero quello che le dice. Il segmento premium, trascinato dalle richieste di maggiori tecnologie con un'attenzione all'ambiente sempre più forte, ha visto l'Europa crescere più di ogni altra regione del mondo come domanda di prodotti più sofisticati. Noi abbiamo seguito questo trend, crescendo anche più del mercato. Oggi per noi questo segmento premium in Europa rappresenta il 65% del nostro fatturato. Veniamo al fronte invece Far East e Russia. Il vostro accordo in Russia è un accordo joint venture in questo momento. Che sviluppi pensa, immagina, possa avere? E invece mi interessa poi anche il fronte cinese. In Russia noi abbiamo raggiunto un accordo che ci dà il 50% con la gestione, quindi il controllo di fatto dell'attività che abbiamo acquisito, con un diritto di acquisto di un altro 25% a 3 anni, quindi arriveremo al 75%. La joint venture è operativa da gennaio dell'anno prossimo, con una fabbrica che stiamo già iniziando a ristrutturare adesso, a cui dovrebbe aggiungersene una seconda. E la joint venture rimarrà a livello di quote paritetica o avete, se non ricordo male, avete un'opzione per salire come controllo? Sì, in effetti, come stavo dicendo, noi possiamo salire al 75% a 3 anni con un'opzione put and call, quindi abbiamo sia il diritto noi di salire, sia i nostri partner di vendere il 25%. E pensa che verrà esercitata questa opzione? È ragionevole ritenere di sì, la stessa cosa l'avevamo con il nostro partner cinese, oggi siamo al 90%, eravamo partiti con una joint venture 50-50. Restiamo sull'estero, proprio per passare all'Italia. In questo momento, visto che non è la Pirelli né solo i grandi gruppi, non sono gli unici soggetti ad avere crescite sostanzialmente estero vestite, se vogliamo usare un linguaggio un po' finanziario, lei che consiglio potrebbe dare a un piccolo medio imprenditore, perché soprattutto la piccola media impresa, che delle volte, senza offesa, manca di antenne sui mercati, non ha le strutture interne, di concentrarsi sull'estero? Se sì, dove lei vede dei driver che permettono una crescita, se non a 2 cifre, almeno a 1 cifra? Ma la nostra piccola media impresa ha nell'imprenditore, nelle persone che gli stanno intorno, competenze che permettono di avere un vantaggio competitivo ovunque. Quindi il muoversi sui mercati esteri per la gran parte delle imprese italiane è più facile che per altre imprese. Ci sono pochi brevetti in Italia, ma c'è moltissimo know-how, c'è moltissima capacità di fare cose meglio degli altri. Quindi io credo che ci siano delle grandi opportunità per le imprese italiane, perché comunque, crisi o non crisi, siamo in un mondo più grande. Essendo in un mondo più grande ci sono più opportunità. È chiaro che ci sono anche i rischi, ma le opportunità sono molte. Questa è la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato con Marco Tronchetti Provera. Ci sono anche molti messaggi critici, ci mancherebbe. Parliamo però di Pirelli. Non tornerò su Telecom sicuramente, lo dico subito, ma parleremo nella seconda parte di questa intervista anche del governo e della Confindustria. Prima però c'è il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte del programma Focus Economia, ultima puntata, l'intervista con Marco Tronchetti. Provera, vedo un ascoltatore che dice, a parte altri commenti, dice: insomma, ho capito che lei si augura che l'Italia finisca come la Grecia. No, abbiamo fatto una battuta semplicemente nella prima ora del programma per capire come la Grecia sta affrontando e vivendo questa drammatica situazione. Impariamo dalla Grecia, ascoltiamo quello che succede in Grecia, perché nella vita non si sa mai, ma col cavolo che mi auguro che non si finisca come la Grecia, siamo mica pazzi qui. Comunque, Marco Tronchetti Provera, nel corso dell'intervista gli abbiamo chiesto che critiche può muovere comunque anche alle nostre imprese, spesso si è detto troppo piccole per dimensioni, incapacità di fare rete e di aggredire poi i mercati, magari facendo più sistema che non i battitori individuali. Guardi, io credo che le nostre imprese piccole, medie, abbiano davvero fatto miracoli, perché le complessità burocratico-amministrative normative che ha il nostro paese non si riscontrano in nessuna parte del mondo. Ecco, in Russia trovo alcune strutture barocche che sono abbastanza rigide e creano problemi di natura burocratica, ma l'Italia ha raggiunto un punto in cui, se non si semplifica di molto, sarà molto difficile per chiunque investire in Italia, ma per i nostri imprenditori riuscire a continuare a crescere. Ecco, i lacci e lacciuoli burocratici sono l'unica analogia che lei trova tra Italia e Russia, o ne vede anche delle altre? No, guardi, l'Italia ha un vantaggio, l'imprenditore italiano in Russia, al di là della lingua che è ostica ovviamente, è per loro difficile l'italiano come per noi è difficile il russo, però hanno un'apertura, noi non siamo mai visti come aggressivi. La Russia ha una storia di difesa dei propri confini che è pluricentenaria. Molti dei paesi industrializzati hanno un passato con la Russia non certo facile. L'Italia ha una libertà di accesso molto maggiore di altri paesi. Sì, la mia è una battuta di carattere politico, ma visto che non l'ha colta, e vado avanti invece sulla capacità di fare impresa in Italia, perché voi avete realizzato a Settimo Torinese, se non sbaglio, un impianto in un tempo che potrebbe essere lungo in Cina, ma da noi è più veloce dei neutrini, 18 mesi se non ricordo male. Questo vuol dire che si può fare impresa, cioè si possono creare stabilimenti anche esteri su Italia. Abbiamo visto casi devastanti, per esempio dell'IKEA, che ha dovuto abbandonare intere scelte di investimento per lungaggini burocratiche. Si può fare investimento in Italia, e la differenza però qual è? Ma guardi, in Italia la differenza la fanno le persone. Noi abbiamo avuto un fortunato incontro con le autorità locali e con il sindacato nella vicenda Settimo, che ci ha permesso di superare gli ostacoli di cui io dicevo prima in maniera quasi irripetibile, dati gli standard italiani. Quindi dalla regione Piemonte al comune, a prescindere dai colori politici, abbiamo trovato persone ricche di voglia di fare, a cui si è aggiunto un sindacato con cui abbiamo un rapporto costruttivo, che ha lavorato con noi per risolvere i problemi non creando ostacoli. Questo ci ha permesso di fare una, diciamo, un'esperienza straordinariamente positiva che dimostra che la volontà delle persone vale più delle norme, però queste norme, se non le semplifichiamo, possono davvero far scappare investimenti. Ecco, veniamo ai temi del fare impresa in Italia e quindi del suo ruolo come manager di lungo corso in questo paese. Lei però si sarà chiesto, una domanda che faccio a tutti gli ospiti, perché certe riforme a costo zero, lei ne citava un'importantissima, quella della riforma burocratica, lo snellimento burocratico, che non vanno a impattare sui conti pubblici italiani, anzi, casomai possono solo migliorare il PIL e quindi migliorare il rapporto, perché non vengano fatte? Cioè, che cos'è, se lei dovesse dare un titolo e fare il mio lavoro, che cos'è la resistenza peggiore che incontra un processo di riforma, ripeto, a costo zero? Guardi, secondo me è la lobby di chi sulle complessità italiane ha vissuto per decenni. Questo è quello che blocca lo sviluppo del paese. Ci sono davvero dei poteri forti. I poteri forti sono quelli che si pongono in posizioni di impedire che si modernizzi il paese a tutela di loro privilegi. Questo è l'ostacolo più grave. Ma lei si riferisce a qualcuno in particolare, gli ordini professionali, le categorie produttive? C'è una responsabilità un po' di tutti, perché questo è un paese che ha vissuto l'intermediazione dello Stato per decenni. Fino a 15 anni fa più della metà dell'economia passava dalle mani dello Stato, l'80% delle banche erano nelle mani dello Stato. Quindi questo ha lasciato un vissuto che ha continuato a riprodursi, basandosi poi su una struttura di norme che sono di una complessità assoluta. Poi quando andiamo a vedere i decreti attuativi e tutte le normative sottostanti, è davvero un lavoro per molti che vivono proprio cercando di risolvere problemi non risolvibili. Per cui gli avvocati, ma non solo, diciamo. Si parla molto in Italia del passaggio del ricambio, del mancato ricambio generazionale. Vorrei sapere se questo, nel caso della classe politica, secondo lei è un tema. Però prima mi dice come l'avete risolto, se l'avete risolto in Pirelli. Partiamo dalla Pirelli, perché io posso più guardare in casa che fuori, ed è sempre giusto guardare in casa propria. Noi abbiamo creato a livello di consiglio un comitato che è proprio dedicato a valutare le successioni all'interno dell'azienda, per garantire continuità all'azienda a prescindere dalle persone, me compreso. Questo è, credo, un dovere nei confronti delle aziende, delle persone che ci lavorano, perché evidentemente la forza di un'azienda è la sua continuità nel tempo, la creazione di benessere per tutti. Questa è la premessa. Le questioni generazionali non mi fanno sentire così particolarmente sensibile, perché ci sono persone di grande qualità giovani, ci sono persone di grande qualità che hanno un'età più avanzata. Il problema, secondo me, sta nell'accesso dei giovani al mondo del lavoro. Quello è il vero problema. Ci sono troppo pochi giovani che lavorano e le carriere nell'ambito delle aziende medie italiane dei giovani si sviluppano in ritardo in rapporto a molti altri paesi del mondo. Però lei ha iniziato a fare manager molto giovane, è ancora giovane in questo paese soprattutto, ma diciamo ancora giovane in generale. Lei aveva più asset o liabilities da giovane rispetto adesso? Ah, guardi, io da giovane ho iniziato in una piccola azienda, quindi avevo l'asset di essere un giovane che aveva voglia di fare, la liability era l'inesperienza, però devo dire che sono stato aiutato da persone di qualità intorno a me e nella vita ho avuto esperienze estremamente interessanti e devo dire che l'Italia è piena di individualità straordinarie a tutti i livelli, sia a livello manageriale che a livello di operai. Ecco, questa sua esperienza, una cosa, ma lei se adesso dovesse scegliere il suo successore, non che lo debba fare ora, ma in Pirelli che caratteristiche dovrebbe avere? L'età mi sembra di capire che non è così determinante, e quindi il sesso nemmeno, immagino, e quindi? Passione, passione, passione e competenza. Una radio che si chiama La Passione si sente, sono più che contento. Mi dica ancora due cose per quello che riguarda invece il suo impegno. Lei giustamente faceva notare che è cresciuto come manager, ha avuto accanto persone molto importanti che le hanno insegnato determinati, immagino, anche valori, oltre che tecniche operative. Lei se la sentirebbe di dare un contributo ulteriore a questo paese? Io penso che il contributo che posso dare è quello di dare tutto quello che posso nel lavoro che faccio, cercando di seguire sempre una rotta chiara sulla base dei valori che sia la mia famiglia mi ha trasmesso e che ho avuto la fortuna di trovare anche all'interno dell'azienda in cui sto lavorando da più di 25 anni. Quindi se Confindustria le chiedesse di fare presidente degli industriali? Ho il mio impegno al 100% all'interno della Pirelli, lo dico da ormai da decenni, vede che non sono così giovane. Però Montezemolo ha fatto il presidente della Fiat e il presidente di Confindustria. Montezemolo è persona straordinaria, io credo di essere in grado di fare al meglio il presidente della Pirelli, ritengo che la presidenza di Confindustria rappresenterebbe un impegno così come oggi, full time, che è incompatibile con quello che io faccio. Un'ultima domanda, dottor Trucchetti Provera. È chiaro che l'impresa deve assumersi le sue responsabilità e su questo mi sembra che il ragionamento sia chiaro. L'impresa però opera in un contesto anche politico, non possiamo far finta che sia solo estero vestita. La Confindustria ha preso una posizione molto netta sull'esigenza di riforme strutturali e non, diciamo, di rimedi o posticci o di breve termine. Io vorrei sapere, nella sua esperienza di manager, che cosa manca alla politica di questo paese, se poi vuole anche dare un giudizio più circostanziato, per me va benissimo, anzi, però insomma, quanto è importante il governo dell'economia e in che cosa non sta governando l'economia questo governo? Ma quello che manca è una visione condivisa. La politica in Italia, ma non solo in Italia, interviene quando il problema si è già manifestato. La politica che ha visione interviene per evitare che i problemi si manifestino. Come ho detto, non è un problema solo italiano. Lo si vede negli Stati Uniti come lo si vede in tutta l'Europa. O si riprende un ruolo della politica che guarda al futuro e previene le situazioni di grave crisi come quella attuale, o altrimenti questa situazione non si risolverà. Secondo me perché siamo arrivati in questa situazione? Cioè fino a, diciamo, un anno fa, anche guardando spread, CDS e quant'altro, obiettivamente l'Italia era meno sotto attacco rispetto alla Spagna. C'è una variabile politica nella percezione del rischio paese che è così cresciuta, secondo lei, o no? La variabile che vede l'Italia al centro e l'Europa come cuore del problema è legata proprio alla mancanza di un progetto per superare i problemi che sono emersi in modo chiaro nel 2008. Nel 2008 è emerso che il mondo viveva su un debito enorme che era cresciuto soprattutto all'interno delle istituzioni finanziarie. Il problema è stato per il momento risolto trasferendo una grossa fetta di questo debito sul bilancio degli stati. Adesso il problema del debito è il debito che sta sui bilanci degli stati. Quindi c'è la paura che gli stati non siano in grado di ripagare questo debito, il cosiddetto debito sovrano, e la fiducia degli investitori viene meno. Il debito, per dimostrare che lo sia in grado di pagare, bisogna ridurlo prima di tutto, e bisogna vendere i gioielli di famiglia per ridurlo, e poi bisogna far crescere la propria ricchezza con un progetto che permetta a un paese di crescere. Ecco, quello che manca sono queste due cose. Non c'è né come si riduce il debito, né come si può far crescere la ricchezza. Questo chiede Confindustria, questo chiedono in Europa in molti, questo chiedono tutti gli imprenditori e cittadini. Dateci l'opportunità di crescere. E questa è la nostra intervista a Marco Tronchetti Provera. Vedo che molti al 349-238-6666 citano la sua esperienza in Telecom. Perché non gli abbiamo fatto domande su quello? Perché è un'esperienza di anni fa. Perché non interessano le aziende adesso e Pirelli, piaccia o non piaccia, ha fatto più 30% nelle vendite? Perché ne abbiamo parlato decine di volte? E perché lo scopo di queste interviste è capire e dare delle scelte sul futuro e non sempre sul passato. Della gestione di Tronchetti in Telecom, ripeto, abbiamo parlato decine di volte e ognuno si è fatto l'idea che ha voluto in questi anni. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, un auguro di buon fine settimana a voi in ascolto, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.